Storiacce di Raffaella Calandra. È stato trovato in un'area che noi avevamo indicato come di probabile presenza di Igor, o meglio Norbert Fehr. Non abbiamo mai mollato un giorno la ricerca di questo pericolosissimo individuo. Che grosso peccato sia stato metterlo in libertà nel 2015, quando ancora doveva scontare degli anni di galera. Era stato scarcerato prima del tempo per buona condotta, e anche se tutto era formalmente corretto, è forse lì che è cominciata la catena di errori terminata nella notte tra il 14 e il 15 dicembre in Spagna, dopo 9 mesi di latitanze e dopo altri 3 morti è vicino a Saragozza che è stato catturato Igor il Russo, a lungo il ricercato numero 1 in Italia, dopo l'uccisione di un barista di Budrio, di una guardia ecologica e forse anche di un metronotte. E dalla sua cattura inizia la seconda fase delle indagini, anche su eventuali favoreggiamenti e coperture. Ed è da qui allora che parte questa puntata di Storiacce. Da quest'estate noi ci eravamo già indirizzati in particolare verso la Spagna, perché alcune indicazioni testimoniali, le verifiche che avevamo fatto circa i contatti che questa persona poteva aver avuto con alcuni soggetti che gravitavano in Spagna, portavano a farci ritenere che potesse essere un posto dove lui aveva trovato ricovero, anche per contatti con alcuni soggetti coinvolti in traffici illeciti. Gli indizi sembravano da tempo andare tutti nella stessa direzione. C'è stata anche una foto inviata da un italiano all'aeroporto e nel tempo sembrava portare sempre di più verso la Spagna, la caccia all'uomo più ricercato in Italia, Igor il Russo, alias Norbert Ferrer, alias Ezechiele, il detenuto modello uscito dal carcere per buona condotta, poi spietato e pericoloso criminale, che nelle campagne tra Bologna e Ferrara aveva ammazzato il barista Davide Fabbri, poi una guardia ecologica, Valerio Verri e forse anche un metronotte, Salvatore Chianese. 9 mesi di zona rossa, di centinaia di forze dell'ordine impegnate, di avvistamenti e poi anche di polemiche, di scontri tra apparati, di indagini bis per le coperture. Ora quindi da un lato si continuerà ad indagare per completare il quadro delle informazioni sui delitti e su questi 9 mesi, dall'altra si andrà a fondo sulle possibili coperture o aiuti di cui ha goduto, su come ad esempio sia arrivato in Spagna, paese a cui è stata chiesta l'estradizione, ma la consegna sarà quasi sicuramente sospesa almeno fino al processo per gli omicidi commessi lì, ma comunque lui sarà processato anche in Italia, ha chiarito il procuratore di Bologna Giuseppe Amato. Riferiscono appunto le fonti della Guardia Civile, lui è stato coinvolto in questo precedente attacco che sembra essersi verificato in una azienda dove lui era stato richiesto, dove il proprietario era andato a cercare di aprire la porta e era stato poi attinto insieme ad un'altra persona da colpi di pistola, e da lì è partita questa successiva attività di controllo e verifica che poi ha portato purtroppo a questo evento letale dell'uccisione di queste 3 persone e poi successivamente a questo incidente stradale con successiva cattura sua. Ecco, procuratore, 9 mesi di latitanza, lei lo ha già descritto come un profilo criminale di assoluta pericolosità, spietato, sì, ma anche un criminale capace anche di procurarsi un discreto numero anche di armi. Già il fatto stesso, al di là delle modalità di acquisizione illecite, perché provento di acquisto illecito di armi, magari da ricettatori o da possessori di armi clandestine o comunque di provenienza di terra, già il semplice fatto che lui ha dimostrato come modus agendi che aveva questa capacità e volontà di impossessarsi delle armi delle persone che lui riusciva ad attingere e a sopraffare, è già una indicazione di una delle modalità, forse la più efferata, con cui lui acquisiva le armi, perché già in Spagna aveva sottratto, come ci si dice, le armi dei due operatori della Guardia Civile. È un comportamento che ha qualificato e ha caratterizzato anche atti criminosi che lui ha commesso in Italia. Una persona estremamente pericolosa perché non ha scrupoli di reagire nella maniera più efferata e violenta da un lato, dall'altro è una persona che, non avendo contatti strutturati con il territorio dove opera, è anche difficile da intercettare, da controllare, da verificare. Quindi io l'apprezzamento che ho nei confronti dei carabinieri di Bologna, Ferrara e Del Rosse e che diciamo hanno saputo seguire questo filo cercando di annodare tutti quegli elementi che poi hanno potuto consentire di arrivare poi infine a questo risultato. Alla fine è stato catturato in una fattoria in Spagna, dove già era stato l'anno scorso e da dove aveva postato pure foto su Facebook. Aveva con sé armi e un uniforme. E dalla Spagna era arrivata la scorsa estate anche una segnalazione direttamente all'avvocato della vedova del barista di Budrio, Giorgio Bacchelli, che l'ha raccontato a Simone Spezia. Igor era stato in Spagna, tant'è vero che alcune immagini che lui ha postato su Facebook erano scattate in Spagna, quindi conosceva la Spagna. Due, io ho avuto personalmente, mi è stata mandata da un italiano dall'aeroporto di Madrid, mi pare un mese e mezzo fa circa, aveva fotografato un personaggio che riteneva fosse Igor, che aveva molte somiglianze con Igor. Io ho girato alla pubblico ministero, il dottor Forte, il tutto, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha portato a cercare in Spagna. Per arrivare ad Igor è stata ricostruita la rete, esile a dire il vero, di persone con cui era in contatto in Italia prima dei suoi delitti, i componenti cioè di quella banda con cui aveva commesso rapine in Emilia, e seguendo i loro spostamenti sono stati anche in parte ricostruiti quegli appoggi di cui in questi 9 mesi di fuga ha potuto godere. Si tratta di magrebini, serbi, ma anche di alcuni italiani. Non a caso in Spagna già 2 volte erano stati i carabinieri del Rosso guidati dal generale Pasquale Angelo Santo, che a storiacce ora dice rifletteremo anche su eventuali errori. Questa attività investigativa svolta dall'arma è stata assidua, è stata incessante e progressiva e ci ha portato via via a individuare e approfondire filoni di indagine per la localizzazione di Norbert Fer alias Igor. Una ci ha portato in Spagna. Così come altre parti della stessa attività di indagine sono state sviluppate in Serbia, in Austria e recentemente anche in Francia. Ecco, generale, ma che tipo di indicazioni avevate che vi portavano fino in Spagna? Un paese dove tra l'altro Igor era anche già stato l'anno precedente. Guardi, noi abbiamo lavorato individuando sul territorio quelle che erano state le figure che avevano cooperato con Igor, che avevano perpetrato reati con Igor prima che commettesse i 2 gravi delitti in provincia di Ferrara. Quindi noi, attraverso la ricostruzione di quelle che sono state le attività delittuose di Igor, abbiamo potuto individuare delle comunità, dei gruppi di soggetti che si erano trasferiti in Spagna, a sud o nel nord-ovest, o abbiamo anche a Madrid dove abbiamo lavorato, e che secondo l'ipotesi formulata d'intesa anche con la Procura della Repubblica di Bologna potessero essere delle reti di protezione e di favoreggiamento di Igor. Siamo andati a lavorare su questi soggetti che avevano mantenuto rapporti con Igor prima dei delitti commessi nelle province di Ferrara e di Bologna. Cioè, quindi persone che prima erano in Italia, che gravitavano in Italia, forse anche quelli che potevano essere stati i suoi rifornitori, mi passi il termine, di armi? Sì, noi abbiamo individuato diverse persone. Queste persone, ecco, che profili hanno? Hanno commesso reati con Igor, hanno commesso reati predatori, hanno commesso reati nelle province, come dicevo, interessate, dove si sono sviluppate le prime fasi delle ricerche di Igor. Alcuni di questi si sono trasferiti all'estero. Ne abbiamo individuato alcuni, alcuni magrebini a sud della Spagna, abbiamo individuato alcuni serbi che avevano mantenuto contatti con Igor e con gli italiani nella provincia di Ferrara, localizzati lì in Spagna, e per queste ragioni abbiamo avviato attività di cooperazione con nostre missioni che si sono svolte in territorio spagnolo già a settembre, poi per ultimo tra novembre e dicembre, e adesso siamo di nuovo in Spagna per ricostruire gli ultimi minuti della vita di Igor prima del grave delitto che ha colpito i due agenti della Guardia Civile e l'allevatore spagnolo che li aveva accompagnati. Cioè, quindi di base il punto, diciamo, di svolta è stato ricostruire quella che era stata la banda iniziale con cui Igor aveva cominciato a commettere reati in Italia, quindi seguendo un po' le tracce dei componenti di quella banda avevate anche appunto raggiunto e identificato la Spagna come possibile suo luogo di ricovero. Quindi è possibile, è legittimo immaginare che potesse essere in Spagna già anche da prima dell'estate. Sì, sui tempi stiamo lavorando. Ma avete avuto indicazioni anche sulla tipologia del posto dove si trovava? Cioè era una fattoria dove era già stato, quindi rientra, diciamo, in questa rete? Igor ha commesso in Spagna alcuni reati della stessa tipologia di quelli che aveva commesso in Italia, cioè faccio riferimento a reati predatori, a furti in abitazione. Per ultimo, la segnalazione che arriva alla Guardia Civile riguardava proprio reati di furto commessi in queste fattorie isolate dove avevano sottratto cibi. La presenza di Igor è stata riscontrata purtroppo con il gravissimo e cruento delitto che si è verificato, ma la segnalazione della commissione di questi reati era proprio tipica di quegli stessi reati che Igor aveva commesso anche nel Ferrarese. Aveva riprodotto esattamente lo stesso schema che diciamo aveva avuto anche in Italia nel momento in cui aveva cominciato a delinquere. Mi rendo conto che è troppo presto, però in qualche modo voi ritenete che anche il suo arrivo in Spagna possa essere avvenuto attraverso, diciamo, questa rete su cui poteva contare, quindi probabilmente in macchina? Avete un'idea? Questo è oggetto delle indagini attuali, ma noi riteniamo, per quelli che sono i modus operandi dei latitanti e per quella che è la nostra esperienza nelle attività investigative, che il latitante non si muove mai da solo, non è mai solo, il latitante si appoggia sempre a qualcuno per sopravvivere, per potersi muovere, per potersi sottrarre alla giustizia. E quindi sicuramente appunto qualcuno lo avrà anche aiutato, forse trasportato, forse casomai nascosto da qualche parte per permettergli di superare i confini, visto che l'ha fatto comunque in un momento in cui era forse possiamo dire il ricercato numero uno in Italia, se lasciamo stare, diciamo, i grandi latitanti di mafia. Questo è lo scopo dell'indagine, individuare le responsabilità di soggetti che hanno aiutato Igor a espatriare. Oltre alla chiusura delle indagini sui delitti commessi, quelli per cui Igor sarà processato in Italia, anche se la richiesta di estradizione è stata sospesa, un'altra indagine vedrà ora nuovo vigore proprio sulla rete di chi ha aiutato Igor nella latitanza in Italia, nel procurarsi il cibo e le armi e poi nella fuga in Spagna. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Indagati, calo del PIL, Trump che litiga con Kim. Oh, certo che i giornali non ci aiutano molto a trovare buone notizie per fare un programma ottimista. No, Carlo, guarda, c'è anche il cuoco che cucina per i poveri, questa promettente startup di giovani studenti e un politico onesto. Oggi, domani si vedrà. Va bene, ma è convinto, si può fare davvero. Sabato iniziamo alle 7.30 e domenica alle 8. Presto, questa è una buona o una cattiva notizia? Ottima, io non vado neanche a letto. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Sabato dalle 7.30 alle 9 e domenica dalle 8 alle 10 su Radio 24. Storiacce. Ci sarà la nostra richiesta di estradizione che dovrà fare i conti con il fatto che il paese richiesto della estradizione ha un procedimento penale per fatti gravissimi commessi in quel territorio. Noi certamente processeremo Igor. Sarà chiaramente processato anche in Italia Igor il Russo, che poi russo non era affatto, il 36enne serbo dalle mille identità, detenuto modello tanto da uscire per buona condotta e poi spietato criminale che ha ucciso due o forse tre persone tra le province di Ferrara e Bologna e poi altre tre in Spagna, che ora chiaramente sospende la richiesta di estradizione perché deve processarlo per i suoi morti. Ma come è arrivato fin lì in Spagna? Chi lo ha aiutato ad attraversare i confini mentre era il ricercato numero uno? Le indagini ripartono ora verso queste due direzioni: da una parte la ricostruzione dei delitti commessi e della fuga, dall'altra le coperture di 9 mesi di latitanza, e già almeno 5 sono gli indagati per favoreggiamento, stranieri ed italiani. E c'è anche un'altra domanda che si impone: sono stati commessi errori mentre le province di Ferrara e Bologna erano zona rossa presidiata dall'elite dei nostri investigatori e lui comunque è riuscito a fuggire? Per il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, non c'è stata alcuna sottovalutazione. Procuratore, visto che quest'estate lei ha già detto appunto delle indicazioni testimoniali vi hanno dato degli input sulla Spagna, si può immaginare che già quindi prima dell'estate fosse in Spagna? Ma di questa è una domanda rispetto alla quale io non ho elementi per risponderle. Sono i temi dell'approfondimento che noi dobbiamo fare, perché il tema delle eventuali complicità è un tema. No, ma al di là della complicità, diciamo, era l'indicazione anche temporale. No, potevo dire, le ho detto, punto. Lei ha detto in conferenza stampa che non c'è stata nessuna sottovalutazione rispetto a questi 9 mesi in cui è stato ricercato. Sappiamo però, e questo sarà la seconda fase, il lavoro ci sarà anche per vedere eventuali appunto favoreggiamenti. Ecco, però che cosa è successo secondo lei per cui per 9 mesi si è cercato, e anche con una zona rossa, con un dispiegamento limiti? Ma questo è assolutamente fisiologico, cioè non ci si deve meravigliare del tempo che intercorre tra l'individuazione di un soggetto e la sua cattura, quando questo tempo ha una sua spiegazione nel comportamento di una determinata persona che è appunto elusiva rispetto ai controlli. Qui è partito un cronometro per l'impatto mediatico che la fuga di Igor ha determinato. Certo, questo è vero. Ma non certo per indicazione degli organi inquirenti, gli impatti mediatici nascono per scelte che non dipendono ovviamente dai diretti interessati. È nato questa sorta di proiezione mediatica che ha fatto partire un cronometro irragionevole che non aveva ragione di esistere. Se uno la mette in questa situazione patologica, lei mi può fare la domanda dei 9 mesi. Io la vedo dal versante del professionista, di colui il quale deve svolgere e coordinare delle indagini, e dico che un soggetto di questo tipo, così insidioso, così privo di contatti col territorio, è stato in qualche misura adeguatamente monitorato e si sono cercate di trovare i vari passaggi dove questo potesse essere, in una maniera, secondo me, in maniera molto soddisfacente dal punto di vista professionale. Poi è chiaro che questo, a differenza del latitante di media organizzata, è ancora più insidioso, perché quello hai una famiglia, un gruppo, un parente dove tu puoi attingere delle informazioni in maniera indiretta. Questo è uno che non aveva nessun radicamento nel territorio nazionale ed è stato molto difficile riuscire a lanciare queste ipotesi investigative. Quindi io niente da rimproverare. Sì, io dico che in 9 mesi si è ottenuto un risultato, secondo me, estremamente positivo, nel senso che, diciamo, l'opzione più ragionevole poteva essere che quello sarebbe stato latitante per ancora altri mesi e poteva anche in ipotesi non essere arrestato nell'immediato. Cioè, qui la professionalità è quella di avere circoscritto il luogo dove quello poteva essere e infine essere arrivati, sia pure con quel contesto tragico, alla individuazione. La tempistica non la può dare un cronoman. No, questo senza dubbio. Quindi lei dice nulla da rimproverare a chi lo ha cercato in questi mesi. Sono orgoglioso, lo dico da osservatore esterno, perché la Procura della Repubblica è un organo ovviamente propositivo dell'azione penale che verifica, controlla, stimola la polizia giudiziaria. Quindi io rispetto alla polizia giudiziaria, sono in qualche misura un soggetto esterno. Assolutamente, certo. Oh, allora io dico, questi di Bologna, Ferrara e Ross hanno fatto il massimo. Punto, io non so nulla da rimproverare e ritengo che si è fatta una bella cosa. Sono orgoglioso di far parte di uno Stato che non dimentica i suoi morti e sono orgoglioso di fare parte di uno Stato che dimostra, avendosi dei carabinieri che sono dei professionisti, di essere in grado di affrontare anche prove dal punto di vista investigativo estremamente difficili, estremamente sofisticate. Con la palla di vetro nessuno ci sta, con il senno di poi è facile fare i maestri. La valutazione oggettiva è quella di una situazione in cui si è fatto al meglio tutto quello che era possibile fare. Non vuol sentir parlare di errori e difende l'operato della sua squadra il generale dei Carabinieri del ROS, Angelo Santo, che al massimo ammette con Storiacce la necessità di verifiche successive. Io posso dire che è incontrovertibile, che è certo l'impegno dell'arma nelle ricerche di Igor, che si è esplicato con il dispiegamento di risorse ingenti, sia nella prima fase sia nella fase successiva, che ci hanno portato, ecco, appunto, fino a lavorare all'estero, in Serbia, in Austria, in Spagna. Quindi l'arma non ha mai cessato di svolgere attività, non ha mai interrotto le indagini e le ricerche di Igor. Questo nessuno l'ha mai messo in dubbio, ed è questo, infatti, tant'è vero che è grazie a voi che si è arrivati appunto alla sua cattura. Forse all'inizio c'è stato un momento, non so, di confusione anche, cioè comunque è un dato incontrovertibile che ha ucciso tra il ferrarese e il bolognese e poi è stato catturato in Spagna dopo che insomma è stato a lungo ricercato in quella zona. Ma questo può accadere. Può accadere, ma l'impegno non è mai venuto meno. No, quello generale, nessuno l'ha mai messo in dubbio assolutamente, l'impegno nella ricerca, l'abbiamo visto, ma è una riflessione che si fa sul discorso della se ci possa essere stato anche una difficoltà di coordinamento o una sua particolare abilità, o casomai era fuggito dall'Italia immediatamente ed è per questo, mentre lo si cercava in Italia, forse lui era già altrove. Ecco, è una riflessione che in qualche modo avete avviato o avvierete anche voi? Certo, noi avvieremo le verifiche e la cattura sarà sicuramente occasione per ricostruire in dettaglio quelli che sono stati i movimenti di Igor e le modalità che lui ha seguito per la fuga. Quindi l'indagine è in corso e punta anche a disvelare questi aspetti. Alla fine però è necessario tornare sul territorio, laddove tutto era cominciato, dove Igor ha iniziato la sua lunga serie di delitti uccidendo il barista di Budrio. E ora per il sindaco di questo paesino nella provincia di Bologna, Maurizio Mazzanti, è finito un incubo. È la fine di un incubo, non avevamo più negli ultimi mesi quel peso che abbiamo avuto all'inizio, ma sicuramente la notizia della cattura è stato così un fulmine a ciel sereno, una notizia molto positiva che naturalmente non fa tornare indietro la vita del nostro concittadino Davide Fabri, ma nemmeno quella di tutte le altre persone che questo criminale ha ucciso, e quindi insomma è stata accolta molto positivamente. Per voi però sono stati dei mesi molto particolari, perché siete stati a lungo anche chiusi in questa sorta di zona rossa in cui si sono concentrate le ricerche di Igor, che però poi appunto è stato catturato in Spagna. Ecco, come dire, non c'è stata anche un po' da parte dei vostri concittadini anche una forma di paura, di insofferenza e anche un po' di stanchezza rispetto anche ad un assedio anche che è durato in questi mesi alla ricerca di Igor? In realtà questa paura, naturalmente questo timore, c'è stato nei primi giorni, nelle prime settimane. Poi quando ci siamo resi conto che molto probabilmente questo criminale non era più qui in zona, la tensione si è allentata e siamo rimasti in attesa. Ci sono state le polemiche, qualcuno ha pensato anche sì che insomma si è lasciato scappare. Io penso che ci sono state tutta una serie di cause, che invece le forze dell'ordine abbiano lavorato bene e anche se è stato catturato in Spagna, però insomma alla fine le forze dell'ordine, la giustizia ha fatto il suo compito. Grazie in regia a Roberta Frisani per questa puntata, ma un grazie particolare va a tutti i tecnici di Radio 24 che ogni settimana montano storiacce, e poi vorrei ringraziare tutti voi ascoltatori. È soprattutto infatti merito vostro se Storiacce ha avuto un nuovo e importante premio. Siamo stati infatti tra i vincitori del premio Giusto Lisi dedicato al giornalismo d'inchiesta, e venerdì 14 dicembre in Senato c'è stata la premiazione. Sul sito di Radio 24, nella pagina di Storiacce, trovate anche delle foto, se vi va. Ringrazio ancora la giuria del premio che ha voluto premiarci, e soprattutto tutti quanti voi che ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Un saluto a tutti da Raffaella Calandra.